Anche se non proprio all'altezza del nostro Akame, mi sono sempre considerato anch'io, se non proprio un cinefilo, almeno un appassionato della decima arte. Ma è da parecchio ormai che mi trovo un po' riluttante a mettere piede in un cinema. Ci sono troppe cose che me ne dissuadono, a parte i prezzi elevati e le difficoltà di raggiungere quelle due o tre vie del centro dove sale e multisale sono ormai confinate. E devo tener conto di quel tanto di naturale pigrizia che crescendo con gli anni mi induce sempre più spesso a passare in casa le serate. E poi non riesco a impedirmi di pensare tra me e me che i film d'oggi sono ben povera cosa rispetto a quelli di un tempo, e subito dopo me ne vergogno perché la tendenza ad agguolarsi tra i rodatori estempori sacti naturalmente è solo un indizio sicuro di senilità. Insomma, al cinema ormai ci andrò due o tre volte all'anno e più delle volte per un motivo o per l'altro torno a casa di pessimo umore. Ma penso che potrei sforzarmi di fare qualcosa di più, se non fosse per un'usanza che trovo tra tutte la più detestabile e che si sta diffondendo nei principali esercizi, quella da segnare all'ingresso dei posti numerati. E ora, quella dei posti numerati, magari anche prenotabili per telefono, in linea di principio sembrerebbe un'ottima idea. Garantisce che non si vendano più biglietti delle poltrone, voglio dire, e protegge dal rischio, una volta tutt'altro che infrequente, di pagare a caro prezzo il diritto di assistere allo spettacolo in piedi o seduti sui gradini laterali. D'altra parte, se mi permettete l'espressione, certe volte può essere una bella rottura di scatole, anche perché, a differenza che nei teatri, alla cassa non è ammessa nessuna contrattazione e non vige il saggio principio per cui i posti peggiori costano meno degli altri, che permette, quando si capita male, di consolarsi pensando ad aver fatto se non altro un po' d'economia. Ma che? Al cinema i posti costano tutti la stessa esosissima cifra e vengono assegnati in modo puramente casuale. E quando la direzione del locale finge di voler sostituire al caso un criterio qualsiasi, di solito è peggio. Esempio: l'altro giorno, spinto dal mio vecchio amore per Robert Altman, sono andato a vedermi Gosford Park, che non sarà proprio all'altezza di Magis o di Nashville, ma mi è sembrato tutto sommato meritevole di essere visto. Eppure per poco non l'ho visto affatto. E sulla cassa campeggiava un cartello che avvertiva di come i biglietti venissero emessi da un computer che avrebbe automaticamente assegnato caso per caso il miglior posto disponibile, ed è bastato questo per farmi venire all'istante una gran voglia di far marcia indietro. E non era, ve lo assicuro, un attacco improvviso di allergia all'informatica, era una questione puramente metodologica, perché come si fa, santi Dio, a decidere conoscenza computer qual è il posto migliore in un cinema, disponibile o meno che sia? Per me che non so mai dove mettere le gambe e faccio, per motivi su cui è inutile soffermarsi, una certa fatica a piegarne una, e il posto migliore è indubbiamente quello che mi permette di stenderle, e vale a dire che deve trovarsi in una di quelle file di poltrone che danno immediatamente su un corridoio traversale. Per il mio amico Natale, che ama sentirsi immerso nell'azione quasi a tu per tu con i protagonisti, è più auspicabile una posizione abbastanza avanzata, non proprio sotto lo schermo ma neanche troppo distante. E per Lanuccia, che preferisce concedersi una certa prospettiva da cui giudicare le cose e comunque in odio i rumori violenti, va molto meglio invece una poltrona un po' verso il fondo e che sia a doverosa distanza, mi raccomando, dalle casse acustiche. Per tutti, di solito, è meglio un posto davanti al quale non sia seduto un gigante con il cappello a cilindro, e meglio ancora se i sedili accanto sono liberi, in modo da poterci sistemare con una certa comodità cappelli e soprabiti. E non è facile, quando si entra in una sala, soddisfare tutte le proprie diverse necessità, specialmente se si è in gruppo. Ma decidere dove sedersi non è neanche quella impresa impossibile. Tutti siamo in grado di valutare la situazione, di compensare rapidamente vantaggi e svantaggi e di fare la nostra scelta. E se le circostanze si rivelano irrimediabilmente avverse, o se sbagliamo nel fare i conti, non potremo eludere una certa scomodità, ma sarà se non altro colpa nostra, perché siamo arrivati troppo tardi o non abbiamo tenuto conto di qualche fattore nella costruzione del necessario algoritmo mentale. Ma trovarsi assegnato, porca loca, è un posto che proprio non ti piace, in una delle zone più affollate di un locale mezzo vuoto. Accanto a degli estranei rumorosi e molesti, in prossimità degli altoparlanti, in posizione tale da dover piegare il collo in un angolo innaturale, e tutto perché un computer, o chi lo ha programmato, fa lo stesso, ha deciso in nome di chissà quale criterio che quello era il miglior posto disponibile quando hai comprato il biglietto, questo significa soltanto unire al danno le beffe. E non ditemi che in queste evenienze, se appena ce n'è la possibilità, nessuno ti vieta di non badare al numero che ti hanno dato e sederti dove vuoi. E a parte il fatto che quando una norma può essere elusa senza problemi, tanto vale abolirla, e che dovunque uno decida di sedersi, le possibilità che arrivi qualche rompicoglioni regolarmente munito di biglietto a dire che quel posto è suo sono comunque altissime, la questione è tutta di principio. Quel metodo, per comodo e ragionevole che possa sembrare, è proprio ai cittadini spettatori di un diritto tutto sommato fondamentale, che è quello di decidere quali criteri applicare a una circostanza che ne ammette diversi. E non si tratta di voler fare il proprio comodo, costi quel che costi, di puntare diritti al posto che si desidera a costo di far alzare qualcun altro con la violenza o le minacce, e quello lo so anch'io che non si deve fare. Se un certo bene non è disponibile, magari perché ci è arrivato prima qualcun altro, beh, si dice peccato e ci si rinuncia. Ma ciascuno ha i propri criteri per minimizzare i danni e massimizzare i vantaggi, e bisogna ben lasciarglieli usare, no? Altrimenti si finirebbe per vivere in una società al confronto della quale la Repubblica ideale di Platone e la città del Sole di Campanella, tanto per citare due noti modelli di convivenza repressiva, e sembrano due esempi di tolleranza spinta al lassismo. E se pensate che questo discorso sia troppo solenne per una questione banale come quella dei posti di cinematografo, provate a riflettere su come sono diffusi i computer nella pubblica amministrazione e a quali utili applicazioni in quel senso potrebbero prestarsi, e poi mi direte. Yeah. Yo, we were talking earlier and I was telling you, it's all my life. I feel like life is really...